chiuse, chiuse, chiuse, chiuse, chiuse. Beh, Marco, Natalino, Marco, ci sei, Marco? Chi è avanti? Chi è? Chi è? Il papa del re. E ma Mastro Giulio, non è entrato nessuno. Tutti quanti a San Paolo. Tutti assenteisti sono diventati, bubu. Neanche quel crumino di coso, di Marcolino Condo è entrato. Quello lì sta mangiando quest'ora, lui sta pranzando quest'ora e non lo muovi così facilmente. io mi stavo guardando il Giro d'Italia fino a un momento fa, contro c'era la stampa eccetera eccetera, poi Giro d'Italia, Giro di Francia volevo dire. Ehi, tu sei appassionato di chi, invece me la consente il computer che ti può messo male. Oh, e non era fatto, quello di 4 volte di Mattedo era giusto subito. La mazzetta ci vuole. Vuole dire di Angelo, la Pazio, compagna di un altro. Ehi, via come? Vabbè, stava bene lo stesso. Quasi quasi mi stavo addormentando anche guardando la televisione, tutta la sera vedo qua a casa, dalle due. Chi è quello? Ma la cuccia tu, che sì. Aspetta Giulio che devo mettere la pecorina a leone. Ok, fai. Oh Marco Condo, oh Marco, va bene, non lasci no il piatto. Attento Marino, che sì. Rientralo. Arrivito, sì. E siccome mia moglie non gliela sa mettere, che è un po' complicata, no? Secondo il gabusoio. Allora gliela metto io la pettorina, sennò è un macello. Infatti già me ne ha rotto uno o due, perché lui non gliela sapeva togliere e me la rompeva io. Adesso non ne rompe più, perché come arriva gliela tolgo. Il confetto, insomma, il confetto per il cagnolino. Uno o due me ne hai fasciato, sennò di guinzagli. Ma che se gli abbia giocato di Gannau? Di Gannau, forse è stato io, di Gannau. E allora, uno o due me ne ha rotto in pelle di quelli in pelle di guinzagli quando era piccolo, e mi li aveva mossi. No, che gli metti quello, mi dici, dico, perché gli sei, gli metti quello, va bene lo stesso, no? A giubilato ve l'ha giocato in Cannau. Allora, Zabucchi. Oh, è fatto bene, mi. Sembra uno di quelli di addestramento, solo che è fatto in corda. Se mi rompe la corda, non me ne sbatte nulla, gliene faccio un altro. Che pittina. Però questo ho visto che non lo sta toccando, boh. Ho visto che questo non lo sta toccando. Si vuole che questo le piace, ma la volevo togliere perché non le piaceva. Già me ne ha rotto uno o due di questi guinzagli, bagana. E se no di pettorine. Le pettorine le distruggeva proprio. Se già quando vai a mettergliela non vuole ammettergliela, no. Cazzo, la lotta bisogna va. Perché gli dà caldo, gliela, la pecorina gli dà caldo, ha detto, ecco perché non lo vuole. No, ma è fatta con uno di quei cinghie di borsello, mi. Non è una cosa pesante. Vabbè, lo stesso, mi. Guarda, tu immaginati, tu fai questo piccolo ragionamento. Quando tu hai gli occhiali che ti metti sulla fronte, no? Per dire, e se i camminelli, che insomma che scada, o la persona quando cammina si scada fisicamente, allo stesso momento il piccito genericale te ne vuole busciacca, perché? Perché se ti cade la testa. Guarda, sì che tu hai ragione, giù, cosa vuoi ti dire? Però è per non attaccargliela al collare, perché al collare lo soffoca, se no, per non fargli venire la tracheite mi ha messo la pettorina. Buonasera, allora già ci siete? Signor Sparviero, già ci siamo, io e Giulio non molliamo, c'era anche ieri, come si chiama, Marcolino Condo, c'era Pomponio. Grazie, sono contento, sono contento che ci siete, buonasera, ciao Giulio, ciao Natalia. Marco Condo non lo saluto, per quello è amico di Falcone. Io mi sono ritratto alle 6:20, 5:30, finalmente a casa, tutta la settimana lì, tutta la settimana io purtroppo non ci sono, e così, solo domani sono a riposo e quindi oggi siamo rientrati presto. E allora, cosa mi raccontate? Tutto bene? Sì? Vado giù, come va? Come va? Non ti sento bene? Sei troppo amplificato e c'è questo rumore sotto allucinante. Sicuramente stai usando pochi watt. Devi aumentare leggermente il watt almeno a 10, se sei sotto i 10, e abbassare leggermente la tua amplificazione. No, è stato un piccatore. Capito? Si parte la mattina alle 6 e si rientra alle 7, alle 8 di sera, a volte non sto rientrando neanche, quindi perciò non c'è il tempo di stare in radio con questo caldo e questa stanza, poi già la conosci, questa è una sala radio, quindi la finestra è sempre chiusa perché sono io e la sera quando rientri tardi alle 8 c'è un caldo da morire, quindi doccia, cena e un po' di TV e me ne vado a letto giù perché non fa. E poi i giorni rimango anche lì, addirittura non viaggio neanche perché è troppo caldo, stavo facendo troppo caldo, vabbè, comunque l'importante è che ci siamo, dai, va bene. E tu Natali, tutto a posto? Tutto a posto, la buoni a posto. Vabbè, se la buoni a posto già si può buoni a posto, non c'è altro problema. L'importante è che ci sia sempre qualcosa che si possa fare. Bene, Meda, novità non me ne raccontate, niente di che. E giù, un po' assente. Un po' assente, questo periodo per me, questi 3 mesi sono da a fare soldi al lavoro, purtroppo, perché è così. È così. Poca radio e molto lavoro. Poi, l'inverno ci rilassiamo di nuovo, dai. Avanti Giulio. Va bene, è così, la cosa, aspetta che mi allontano il microfono, così mi sistemo un pochino meglio, e va bene così, ecco. Stavo dicendo, allora, va bene che sia la marcita, l'abbiamo eliminata, no, dalla Juve, hai saputo? No, niente, non stavo seguendo niente, mi ha mandato un messaggio mia figlia che sembra che Bonucci mi pare voglia andare al Milan, una cosa del genere, o sia andato al Milan. E poi appunto gli altri non lo so, aggiornami. È andato a Milan, oggi faceva le visite, sì, è già firmato e tutto. 7,5 milioni, a quanto sembra, più bonus di 2,5 milioni, poi insomma 10 milioni prende lì dato al Milan, boh, non è possibile, no, ma è meglio che sia andato via, dai, non era più il caso che rimanesse alla Juve per il semplice motivo che c'era malumore, sai, con Allegri e anche con i compagni di squadra, tipo Barzagli, tipo Dybala, eccetera, perché l'avevi saputo, no? Poi era successo a Cardiff nel secondo tempo, perché non ha giocato la Juve? Tipo lui si è cucciato la Dybala e poi naturalmente si sono messi in gara, si prende, chi va nel Briato, ed ecco che il secondo tempo erano nelle condizioni che erano, tutto io qua. C'era qualcosa che non andava, non lo sapevo giù, non lo sapevo perché sono rimasto abbastanza deluso dal gioco del secondo tempo alla Juve, perché potevano vincerla tranquillamente, ecco perché non sapevo niente. Vabbè, meglio così, che sono grati al Milan allora, perché a questo punto spero che ci sia un buon spogliatoio e si continui a dare il massimo come ha sempre dato. Vabbè, ok, poi mi dici se hai altre novità, a vedere, perché io non so niente, so che è andato via anche Dani Alves e hanno preso quel Costa, come si chiama, non so, un nome del genere, ma non so se un difensore, se un centrocampista, non lo so. Avanti Natalino. E K, mi sa che mi hanno gioco per di gol. E non riprendere, dai, fai già. Già non c'è problema, Natalino, è che io da molto non mi sento, quindi vi chiedo un po' scusa se sono un po'. Capito? Perché da molto non vi sento, quindi sapere le novità. E quindi giù, Daniel mi è andato via, questo che hanno comprato cos'è? Che giocatore è? È una navetta e una mano a sinistra, può giocare sia a destra che a sinistra. Lui è tutto mancino, però è in grado di giocare sia a destra che a sinistra per poter fare cross per i guai. Douglas Costa, si scrive Douglas Costa, però si dovrebbe pronunciare secondo me Douglas Costa, comunque lo chiamano Douglas Costa e chiamiamo Douglas Costa, per lui va bene lo stesso. Poi l'altra novità è quello che ha comprato la Sampdoria, Schick, che a quanto sembra nelle visite mediche hanno rilevato un problemino al cuore e adesso dovrebbe rifare le visite, penso che le abbia già fatte, anzi, e sapremo il risultato fra qualche giorno, se effettivamente è una cosa tipo come aveva avuto un paio di anni fa di Steiner, che ricordo di Steiner, aveva avuto quel problemino, ora se che sia una cosa del genere, dunque risolvibile, però la Juve non lo vuole, perlomeno non lo vuole in prestito per vedere come funziona e se no lo restituisce alla Sampdoria. 30 milioni sono, non è poco. 30 milioni è un giocatore che non lo può giocare, mi pare una cosa che non è molto, molto bella, sì. Ma anche Nick Steiner penso che sia in partenza, è stato confermato qualcosa, Quadrado rimane, com'è la situazione? No, ci sono tutti i giocatori della Juve. Solamente che chi dovrebbe uscire penso che sia il Milan, magari il Com, per eliminare un posto in cosa, come si chiama, da essa comunitario, perché se c'è il Com venduto, allora si libera un posto da essa comunitario, perché la Juve non ha più posto, perché ha Betancourt, che anche lui è essa comunitario, per cui se invece Ricom se ne va, allora può comprare un grande giocatore extra comunitario, però a quanto sembra adesso si sta buttando su Matic oppure Manolas della Roma per sostituire Bonucci. Manolas è un difensore, è anche bravo nella Roma. Sì, Manolas è un gran giocatore, oppure De Vrij, quello della Lazio stessa. Oltre a quello il Milan ha preso anche Piglia, ha preso quello della Lazio, insomma sta facendo una buona squadra, sta allestendo, però poi naturalmente bisogna vedere se funziona, perché nella formazione ci dovrebbero essere addirittura 8 giocatori nuovi, per cui poi bisogna vedere se insieme rendono abbastanza o se fa bene poco. Mamma mia, vabbè. Sì, Milan e l'Inter stanno facendo una squadra nuova per poter competere con le prime, insomma, con la Juve, Roma, Napoli, capito? Sicuramente, perché io ho visto un amichevole dell'Inter è completamente rifatto, non so se l'hai vista, quella l'ho vista, completamente risanata, completamente con un gioco molto diverso, ed è il gioco dell'allenatore della Roma, sì, è bravo, altro che Spalletti è un allenatore che sta fatto suo, non è da poco. Per cui poi è un uomo anche coerente, aveva detto che se lui non vinceva niente con la Roma, che la lasciava la Roma, così ha fatto. Capita, boh, vabbè, comunque la Roma si è preso Di Francesco, si è preso l'allenatore del Sassuolo, anche quello è un allenatore, anche se è un allenatore emergente o quasi, però diciamo che ha fatto sempre bene, almeno questi ultimi 2-3 anni ha fatto bene sempre. Certo, l'evoluzione Di Francesco alla Roma non lo sapevo. Vabbè, comunque adesso vediamo, inizia il campionato, quali sono le partenze, quali sono gli arrivi, insomma vedere un pochino come va. Vabbè, bene, non sapevo Bucci, mira che cosa non andava via, ma no, non sapevo niente. E mio fratello è milanista, molto contento, finalmente un bravo difensore, ha diritto a Caccaimo, un bravo difensore Gandoviso, sempre tutti e tre, Bonucci, Chiellini e Barzagli, ma a Rasura, come ti ha dimostrato ultimamente, non è che ha fatto niente di che, e per colpa sua abbiamo preso anche qualche gol, capito, proprio nella finale di Ceccio, proprio per colpa sua, ecco perché c'era qualcosa che non andava. Vabbè, e beh, Natali, puoi riprendere? Avanti. Sì, aspetta un attimo che sto mettendomi il mouse a posto. Metti, è arrivata Pignara, non si è sentito, attento Marcolino Condo, sempre lampato in chiesa di vano, sì. Ah, questo l'hai colpiato sotto il muso? Sì, comunque poi adesso diciamo che quella quasi è fatta, anzi diciamo che è solo una questione di completare il ricorso. L'acquisto di Bernardeschi dalla Fiorentina, stanno parlando per il fatto dei bonus e basta, però per quanto riguarda la cifra sono d'accordo e tutto. Dunque Bernardeschi dovrebbe essere imminente l'arrivo di Bernardeschi, perché vabbè, Bernardeschi alla parte, a destra per dire, o a sinistra, e questo Douglas Costa, o alla parte o all'altra, che sarebbero quelli che dovrebbero fare il cross per i 90 milioni che abbiamo in attacco, poi si vedrà, dovremmo vedere, solo che adesso c'è un problema, adesso sanno che Bonucci non c'è e che la Juve ha bisogno di un centrale, come si deve, che sia un top centrale, e adesso magari le chiedono più soldi. Tu pensi che ha rinunciato a 20 milioni per Bonucci, perché Bonucci era stato richiesto dal Manchester City e anche dal Chelsea, il Bonucci Conte lo voleva, e gli avevano fatto 60 milioni. Beh, la Juventus, brutto, perché evidentemente sta tentando anche un essere bravo, ha detto dove vuoi andare, gli ha detto, e lui ha detto a Milan, e allora va, ciao e vai, quindi se poteva dire benissimo, allora tu vai al Chelsea oppure vai al Manchester, sono 60 milioni, anziché 40, qua, te lo immagini. Invece, non ha accontentato, vabbè. Vuol dire che lui vuole giocare in Italia, vuole giocare contro la Juve in campionato. No, sono attento che Dybala non è... Ma è perché è successo questo tripetracchi? C'era scritto qualcosa, hai letto qualcosa da qualche parte, perché ha dato uno schiaffo a Dybala, cosa gli ha fatto Dybala? Perché quando sono entrati nel spogliatoio non ho fatto altro che criticare a Dybala perché dice che non stava giocando bene. Lui aveva la presunzione di fare l'allenatore, no? Forse non ha compreso che l'allenatore era lì, non era lui. È un po' come quando ho fatto il discorso col Palermo, ti ricordi, quando quello oppure l'ha risposto male, anche a lì gli ha fatto male a rispondere così, perché lo voleva togliere e poi magari lo multavano. E invece poi lì, sai, una parola tira l'altra, una bottiglia tira l'altra e ne possiamo arrivare a patatrac. E dunque, siccome Dybala si vede che non stava giocando bene, in effetti non è che stava giocando molto bene, lui si è lamentato e che voleva che magari sostituivo, sai, naturalmente si difende perché ha detto sei tu che stai sbagliando, ma chi? In effetti ha detto perché ha preso lui due gol poi con il Madrid, per colpa sua, per colpa anche di Chiellini e oltretutto anche colpa di Buffon, perché due gol poteva anche parare Buffon e invece l'ha subito, capito? Sì, vabbè, Buffon è per me finito, no? Qui ci hanno confermato a netto momentaneamente, mi pare così, come portiere in assenza di Buffon. No, assolutamente netto, è già stato venduto a Siviglia per 18 milioni, mi sembra che l'ha venduto a Siviglia. No, sta comprando Chiesini, ma tu non eri all'Isola Rossa? Con portiere, e però la Juve ha offerto 8 milioni, chiede il numero 15, per cui stanno trattando, ma Chiesini, portiere della Roma nell'ultimo campionato, è un bravo portiere quello secondo me, in modo che poi per quest'anno c'è sempre Buffon, ma poi sarà lui che lo sostituisce. Vai Cruviva, chi sta dicendo? Ho sentito qualcosa, chi è? Quel crumido di Macolino Conde! Vabbè Claudio, ma non eri l'Isola Rossa tu? Ma ci sarei, oggi è venerdì, domani sono a riposo. Cosa faccio? Ma è tu lì e la famiglia qua. No. Sono rientrato, se mi vedi c'è un buon negro. Per carità. E adesso niente, poi tra l'altro dalla prossima settimana mi hanno messo qualche giorno a riposo perché devo staccare, non è che sto facendo 10-12 ore al giorno, quindi sotto il caldo, sotto sempre in macchina nelle torrelle, perciò devo staccare qualche giorno, 2-3 giorni, rimarrò a casa. E tu, tutto a posto? Sì, guardate, un saluto a tutti. Sono arrivato in questo istante a casa, dobbiamo mettere la roba nel frigo e poi devo ancora parcheggiare che qua non ce n'era. Scusate l'irruzione, sentiamo fra poco, dai, 10-15 minuti. Ciao Claudio, fai girare, riprendete, dai, dopo. Sì, Marco, dai, già siamo qua, non ti preoccupare, io faccio un po' di radio stasera. Almeno sino a portare a Filippo, che mia figlia esce alle 9, quindi lo porto io. Avanti, Natali. Cata, mi era andato in processione il coso, l'alimentatore mi si è chiudato tutto. Quello è mio, cioè tu no, quello della Prox è la 50. Quello no, com'è quello tuo, comunque, là. Sì, quello fa protezione, si è chiudato tutto. Ha fatto anche a me una volta, di Tomasa ma la gente su tessuto. Deve essere che c'è qualche protezione all'interno per il caldo, si scalda troppo, capito? Sì, io ho il proprio da 60 A, quello grande. Evidentemente c'è qualche protezione all'interno. Bene, vado giù. Ma non ho capito chi è questo portiere, Baro della Roma, ma gli sciughi, come si chiama? Chiesini, quello è il portiere titolare che aveva la Roma nell'ultimo campionato di quest'anno, che appena finito 2 mesi fa. Quello, è un bravo portiere quello. Sì, ma un fuoco papperone, quello di Sciove piace molto Reina. Ma Reina è grande, è di età, e la Juve vuole un portiere che possa giocare per tanti anni squadra. Reina è cosa con Napoli, ha rinnovato con Napoli, era trovato. No, sì, bravo, certo, se poi a me me l'ha perduto Donnarumma. Quello, vabbè, comunque, anche lui ha rinnovato con Milan, per cui non c'è speranza, almeno per questi anni. Vabbè, no, Chiesini già è un bravo portiere, dai, non possiamo lamentarci, sempre come secondo portiere specialmente, che poi diventerà il primo portiere, ma è di lusso. Ah, io ho sempre detto che la Roma non sarebbe mai venuta la Juve, non vuol dire la Juve. La Roma ha rinnovato col Milan perché hanno preso anche il fratello, se no non avrebbe rinnovato. Sì, la Roma sì, infatti è un milione l'anno, il fratello. Il fratello che è un altro portiere, ma la portiere di sé questo, portiere come serve è Gigi, è Gigione, è Donnarumma, quello sì, ma quello prende mi sembra che quello l'hanno fatto un contratto di 5 milioni l'anno, una cosa del genere. E già non avevo preteso anche che facessero un contratto anche al fratello a 1 milione l'anno. Per cui già va bene, insomma, si è sistemato anche il fratello, si è sistemato. Che schifo. Vabbè, terzo quartiere può farlo, l'ha detto, così, però 18 anni, 5 milioni di euro all'anno, ragazzi miei, non le cuccia di gioca, ragazzi, due a zappa, andata lì, E chi li ha visti mai questo insieme? Ma 18 anni era voi, Donna Roma c'ha 18 anni, Gigio Donna Roma c'ha 18 anni, appena compiuti. Immaginate che a 18 anni lui, iniziando la carriera, prende 5 milioni di euro all'anno, ok? 5 milioni di euro all'anno, fatelo conto cosa sono mesi, per un ragazzo di 18 anni, quando arriva alle dai di Buffon, non sa più di puliti di nana, capite? No, quando arriva alle dai di Buffon, non va lungo, non va in banca, ma poi gli arrivi subissimo. E l'Inter vorrebbe Nainggolan, ma penso che non lo va la Roma, perché Nainggolan è insostituibile, secondo me è un grandissimo giocatore, non credo che la Roma molli Nainggolan, anche assolutamente no, l'Inter lo vorrebbe, sta insistendo, ma vediamo un po'. E vabbè, io voglio iniziare il campionato a voi, cosa ne ci vuole? Se ce la facciamo quest'anno a vincere qualcosa di più concreto, se no torna al campionato, lasciamo il campionato, dai, passa agli altri, punta alla Coppa dei Campioni, alla Champions, che è più importante, vabbè, pazienza. Cosa succede a Natalino? Cosa stai facendo col coso? Col magno? Ehi, 9:20 a Collante, sì, Radio Kimbe. Insolito. Disturbatore di televisioni. Vai tu, un briaco nefralgico. Sai come è rientrato? Ehi, ma c'è qualcuno sotto Natalino, chi è che vuole entrare? Buonasera a tutti, Gianni Doppio Rufo. Ma non eri tu sotto Natalino, perché tu sei basso, ce n'è un altro sotto, ho sentito la voce. Ciao già, buonasera, ben sentito. Ciao a tutti, dai. Sono andato a salutare, sto andando a fare delle commissioni e ho acceso l'apparato, va. Per bene sentire Se non ci fossi io e Marco qua e Giulio a rabbrivare la situazione, non c'era nessuno veramente. Ciao già. Ma belli, ma l'altro giorno non c'eri, ma con il mio chiamante non rispondeva nessuno. Sta a far Napoli, ho sempre entrato nessuno. Sì, in estate è comprensibile, la matta ne rivale a tutti. Io non c'ero a Sassari o Gianni, quindi non potevo risponderti. Se arrivavi all'Isola Rossa, magari, capito, ti avrei sentito. Che lì sono arrivato. Gigi Vulcano mi ha sentito dal camion all'Isola Rossa. Un attimino solo che chiamo a Marcolino. Ehi, va bene. Manca il trascinatore, Giulio, non entra mai nessuno che c'è radio. C'è poco di gente pigra, ormai sono staccati tutti. Ciao Gianni, se mi stai ascoltando. Sì, vabbè, io facevo delle chiamate la sera, tu c'è San Paolo, in via San Paolo. No, ieri c'era Marco, vabbè, abbiamo cambiato due chiacchiere, poi ha chiuso Marco e c'era Marino anche, anzi mi ha chiamato Marino, io non l'ascolto ancora e dunque gli ho risposto, andava. E cosa ci vuoi fare qua? E d'altronde è così, la gente non so se si è stancata o che cosa sta pensando di fare. Saremo a vedere, vai Natalino. Aspetta un attimo, Claudio, ma tu non eri in ferie con la famiglia all'Isola Rossa? Se non fossi in ferie tu, stavi lavorando e ti sei abbronzato lo stesso. Io lo credo, quei giorni viaggiavo più a petto nudo, anche se rischiavo sempre perché io non posso stare a petto nudo. Però il caldo era talmente tanto che non potevo stare, capito, in macchina, mettevo la maglietta con l'aria condizionata, poi quando stavo nei pianti che stiamo facendo dei lavori molto urgenti. anch'io. Il problema è che sono juventino, capito? E quindi adesso devo trovare un posto per andare al mare. Se vado 3-4 giorni e se rimango a casa, mia moglie, no, no, ero da solo, c'è mia moglie, te l'ho già detto, ho trovato anche un messaggio. Da solo, i miei colleghi lì c'era, ci hanno appunto dato un alloggio, quindi chi voleva viaggiare poteva viaggiare, chi voleva rimanere, rimaneva. E ci sono stati dei giorni che sono rimasto lì proprio perché il caldo era insopportabile per viaggiare all'ora di punta, capito? E da juventino faccio veramente schifo perché tutta la parte del corpo alta è abbastanza nera, ecco, abbastanza, non mi sono mai visto. Neanche quando sono stato in ferie 15 giorni, mi ho fatto 15 giorni di mare, non sono riuscito ad abbronzarmi così. Sono mezzo busto completamente nero, le gambe mi si attaccano i polpi, perché non è che puoi fare pantaloncini, capito? E quindi adesso dovrò trovare un buco in qualche spiaggia, lo fermo, c'è poca gente per abbronzarmi le gambe. Ma tu da buon juventino ti dovevi mettere delle strisce di fattore 50, capito? Così diventavi a strisce bianche e nere. Sì, potrei, mi avevo detto, mi non uscire a portare il cane, passaggi i corpi, perché fai veramente pietà. E vabbè, pazienza. Quando uno lavora non è al mare, non è che hai grosse pretese, quindi l'unica cosa che facevo la sera dopo che andavano via, insomma, i responsabili, mi toglievo almeno le scarpe antifortunistiche, una sciacquatina in piedi e stavo in ciabatte, insomma, quelle poche ore che dovevo rimanere ancora in cantiere, perché non si poteva stare più, non ce la fai a stare 10-12 ore con quelle scarpe lì, capito? L'unica cosa che facevo, ma sempre pantaloni lunghi. E vabbè, dai, ci rifaremo, l'estate è ancora lunga, c'è tutto luglio, tutto agosto, anche metà settembre sicuramente, da poter fare ancora questo sacrificio, almeno per quest'anno, lo dovrò fare, poi il prossimo anno butto la spugna, basta così, ho già dato anche troppo, vai Giulio. Ok, qua. Vabbè, adesso se sei nero ti fai le strisce bianche e così è come avere la maglietta, vai. Sì, bianco nero, va bene così. Ma fini mentira, guarda che io l'altro giorno sono visto il terrazzo, sono stato a 10 minuti o 4 ore sul terrazzo, e allora con la maglietta male che corte. E adesso sono sceso con la maglietta nuova. Una mozzarella per carità, poi di tu mi da quelle parti con questi incendi che c'erano, io non credo che il caldo l'hai preso. Tu pensa che avevo sentito un posto che adesso non mi ricordo dove era, addirittura per effetto degli incendi quel giorno c'erano 51 gradi, non mi ricordo in quale paese era, ti puoi immaginare, è brutto, quando è così è brutto veramente. No, pochissimo, quasi nulla, perché ho visto gente che sta 3 ore al sole fissa, no, a me più che abbronzarmi interessa fare il bagno, sono sempre in acqua, quando andiamo al mare sono sempre in acqua, poi tranne il momento che mangiamo qualcosina, mi interessa più il bagno e la frescura che diventare nero, o Giulio, è tutto lì. Al sole ci si scalda troppo, la pelle diventa bollente, non mi piace, da. Sì, un po' di tintarella io lo devo prendere perché sono anemico e mi ricordo sempre come sei bianco di viso. Male non ci sta un po' di tintarella, però non sono quelli che vogliono diventare neri, cioè tanto poi mi finisce l'estate e la abbronzatura se ne va via tutta a pezzi, no? E sembra rogna più che abbronzatura quando comincia a andarsene via a pezzi. Claudio, ti volevo chiedere, ma ieri chi è che mi ha mandato la mia modulazione dove eri tu? Cioè cosa mi hanno fatto? Mi hanno traslato? Cosa hanno fatto? Non è corretto farlo, chiunque sia stato. No, ero al telefono con un amico che c'era il baracchino acceso, mi ha detto mi c'è Marco, cioè, ma non te ne ho fatto sentire voce, ti ho detto io, cosa ci ritieni? Stavi parlando, mi pare, di un Antonello di radio da comprare, eccetera, VHF, qualcosa. No, non si fa tratto, ma c'è, ma stasera mi c'è Tizio Caio Centru e c'è Marco che sta parlando di queste cose, questo e quest'altro, ma no, non mi ha fatto sentire neanche la voce. Veglia. No, comunque in realtà il discorso filava con Claudio, perché in realtà tu non serve nessun certificato per acquistare, cioè tu lo compri e lo detieni, ma attenzione, vuol dire tenerlo in scatola e possibilmente chiuso nell'armadio, non collegato. Quando tu ti sei fatto la patente in realtà non era per detenere gli apparati, cioè detenere chiusi in scatola, ma era per l'uso. Quindi tu devi dire più che hai preso la patente per l'uso degli apparati, non la detenzione. L'attenzione libera, nonostante il Ministero cerchi sempre di farlo sembrare come un reato quasi, lo sai, il Ministero. Poi ho letto sui forum che alcuni radiatori vorrebbero far passare una legge per vendere le radio esclusivamente a chi ha la patente amatoriale, capito? A certi radiatori, li do del sedere che alcune persone, potrei essere anch'io, non parlo di te, dico di altri in altre parti d'Italia, li do del sedere proprio che qualcuno in PMR su altre bande usi apparecchi amatoriali, quindi vorrebbero far passare quasi una legge per cui gli apparecchi vengono venduti esclusivamente a radioamatori. No, ma non è quello il problema, che ci sono dei discorsi che abbiamo già parlato noi, capito? È impossibile continuare a quelli livelli, perché io perlomeno dal 93 oggi io le antenne sul tetto vere e proprie per poter fare attività amatoriale le ho messe 2 anni fa. Tutte le antenne necessarie, ho speso un più di 2000 euro per avere un impianto del genere, con le direttive che ci vogliono eccetera, ma io quando la prima volta che mi avevano scoperto io mi ho preso la licenza, che tra l'altro era la licenza speciale, non è neanche quella ordinaria, proprio per la detenzione, per poter detenere le radio, per non rompermi le scatole, perché io baracchini ne ho sempre usato pochi. Mi sono sempre piaciute le radio HF anche per la 27, nonostante non si possa fare perché la legge è uguale per tutti, però sai, uno è non averla e uno averla, e poi sì, le VLU le ho sempre usate e basta, ma non è quello il problema, il discorso è che si sta esagerando tantissimo, io non è che devo insegnare alla gente quello che deve fare, la gente grande è vaccinata e fa quello che le piace, ma quando ci sono gli allenatori all'ascolto e sentono CB, il PMR che dicono che sono stati registrati, attenzione, lo dico perché non me l'ha fottuto, sono stati registrati e c'è un movimento molto molto molto pericoloso lì, hai capito? Quando uno si mette lì a parlare, ho fatto la direttiva, sto usando 20 watt, adesso ne ho 10, adesso ne ho 15, mi ho comprato il veicolare, mi ho comprato quello, fatti furbo, no, io ho sempre detto fatti furbo, capito? Fatti furbo, ma invece mi sembra che sia così, quindi a me non me l'ha fottuto, io non ho niente da spartire con nessuno, Marco, non ce l'ho con nessuno, non me ne frega niente nessuno. C'è talmente gente ignorante che non capisce che si danneggia con le mani sue, capito, facendo così. Chiunque può avere quello che le piace a casa sua, ma no, stai zitto, non lo dire. Correggimi se sbaglio, Giulio. No, ma non è così, ma è giusto, in effetti è giusto. Questo vizio che c'è di andare ad elencare tutto quello che uno ha a casa, eccetera. Poi per quanto riguarda il discorso della legge che stava dicendo Marco, mi sembra una legge un po' certosina, perché a questo punto anche se uno non ha la patente se lo compra lo stesso l'apparecchio, perché io dico Claudio, te questa segno, vai, fammi la cortesia, compra questo, tu che sei abilitato eccetera, non ti sembra, Marco, che non è una legge intelligente quella che vogliono fare? Ma cioè si devono mettere in testa che la radio potrebbe essere un'arma, ma non lo è. Tutto nasce da alcuni radioattori, ho letto dei forum, non sto parlando di gente di qua, ho letto il forum e lì si vede che certi randatori non possono soffrire che alcune persone comprino apparecchi per usarli su altre bande libere o assegnate, tipo LPD, PMR con certe potenze, capito? Li rode a certi, c'è poco da fare, è così. E quindi, che ne so, magari all'amico politico vorrebbero suggerire una cosa del genere. Ti dirò, anche il Ministero delle Comunicazioni però fa quasi capire che la detenzione, cioè comprare un apparecchio e detenerlo chiuso in scatola, dovrebbe essere un illecito civile o un reato. Cercano sempre di farlo passare così. Però una volta che tu hai i soldi lo compri, però devi tenere chiuso in scatola. Molti invece lo usano, poi se c'è un controllo staccano la spina, staccano l'antenna e dicono ma non lo sto usando. Una volta che tu lo levi dalla scatola è quasi implicito che lo devi usare. Certi si arrampicano sugli specchi, ma è così come ha detto Claudio, capito? O lo chiudi, te lo tieni nell'armadio chiuso nella scatola originale, quella è la detenzione, punto. Quando tu lo usi fuori, fai prove, lo attacchi, anche se te lo trovano vicino alle apparecchi con l'alimentazione staccata o l'antenna staccata, è chiaro che quando girano l'angolo loro lo stai usando, è quello implicito, dai, vai Claudio. Ah, piuttosto, vediamo se è rientrato Natalino, ci sei? Già sono qui. Riprendi Claudio. Scusate un secondo che sono al telefono, un minuto solo, riprendi giù. Ok, riprendo io, allora. Sì, Marco, questo è vero, tutto questo non ci piove, quello che ha detto corrisponde alla realtà. In effetti la gente così, ma siccome ha la mania della grandezza di farsi vedere, magari attrezzato, sai, l'italiano ce l'ha per natura questo modo di fare, di comportarsi in maniera scorretta, perché in effetti è una maniera scorrettissima di comportarsi, ma io ho questo, io ho quello, io ho quell'altro, io sto uscendo con tanti vatti, io sto uscendo con questa parecchia, eccetera, eccetera. Però devi considerare anche questo, che anche per gli animatori, io un altro giorno mi ha dato uno spunto per raccontarti questo particolare, ho visto un video della Buonanima di Cusiga, tu lo sai, il noto tra gli amatori, il più noto in Italia praticamente. E lui stesso in questo video ha dichiarato che faceva il pirata utilizzando dei vatti assolutamente più alti di quanto li poteva usare. L'ha detto lui sul video, che poi basta prendere il computer, tu apri e scrivi QRZ, oppure fai il nome suo, radioamatore Francesco Cusiga, e poi ci sarà tutte queste dichiarazioni. Io le ho visto diverse. Capito Marco? Per cui anche Fernando Mattoni, nonostante che lui era il presidente del governo, che era stato il presidente del governo, addirittura aveva la stazione a Montecitorio, cioè nel suo posto dove operava da politico. Per dirti, no? Poi alla fine dice ho dovuto smettere perché mi aveva detto che era pericoloso, non si poteva mai dire, capito? Essendo un amatore, conosciuto a tutti ed era pericoloso. Sì, ma guarda, c'è un bel di radioamatori che anziché usare 500 watt o quanti sono, adesso non mi ricordo se sono 500 in tutte le bande, non pare di no, ne usano 1000, 2000, c'è chi ha amplificatori che sembrano frigoriferi e con 4, 8 kW, anche qualcuno ai Sassari, no? In zona tua, Giulio, in zona tua. Chi ce l'ha lo usa, chiaro. Va bene, tutto lì il discorso era. Che poi Giulio, anche se dovesse passare la legge, nota, se io volessi parlare in PMR con potenze alte, io non ho assolutamente bisogno di apparecchi amatoriali, basta prendere un Polma Smart, un G9 Midland, un MT5050, i venditori te lo vendono già con 4 watt, quindi basta avere un PMR ufficialmente omologato, te lo danno già con 4 watt e si parla lo stesso, quindi non servono nemmeno gli apparecchi amatoriali. Questa è un'ipotesi che ho fatto. Sì, ma in effetti è così. Io non uso l'antenna esterna, uso il suo gommino anche dall'interno di casa, sarò fortunato, sarà quello che vuoi, dalla posizione che mi ritrovo, però riesco a parlare un po' con tutti, evidentemente ho una buona canalizzazione, lo sai, lì da dove sono io sono all'esterno della città, per cui un po' di campo libero c'è, e allora però non uso l'antenna esterna. Potrei anche metterla per dire, perché ce l'ho da anni, ma ce l'ho per il ricevitore da sempre, infatti è sempre attaccata al ricevitore. Intanto non è pratico per me utilizzare il PMR con l'antenna esterna, per il semplice motivo che il PMR mi consente di spostarmi da un punto all'altro della casa, e dunque mi basta il suo antennino regolare, tranquillo, pacifico, e poi mi sento, basta che me ne frega di farmi sentire più forte di quanto mi sento. Quando mi sento basta, non me ne frega più di tanto, Marco. Io l'ho preso così. Natalizio, sì. Eia. E sono tanti. Non so bella voce, sono stonato stasera. Prenditi un bicchierino di cannolaro e ti chiarisci l'uvola e così canti bene. Se mi imbriaghezzo sì che canto. Non bisogna imbriagarsi, no. Basta scaldarsi solamente l'uvola. Come ti fanno i detti cantanti, no? Prima di buonissima a cantare, si bevono un whisky, così scaldano. Le cose, come si dicono, le cose vocali, per cui poi cantano bene. Bene, Marco. Come l'uccellino, eh? Ehi, Natalia, anch'io però un po' di caldo, un po' di corrente fredda, sono un po' scombussolato, Soprattutto quando esco, poi torno qua. E vabbè, l'estate è così. Comunque è davvero meglio l'inferno, perché almeno ti copri, ma qua certe volte non sai come stare, mi giro nel letto, con la finestra aperta e il ventilatore, mi giro a destra e a sinistra, non riesco a prendere sonno. No, qua si sta bene, in quel senso lì si sta bene, non c'è tutto questo caldo, capito? Anche se io adesso mi ho messo il ventilatore vicino a... per scaldarti, ti ha messo il ventilatore. Già andava dopo un po', quando comincia a scaldare il motorino, ti manda aria calda. Dopo, mi si è bloccato la ventola qua della stazione, mi si è bloccata. La ventola che avevo attaccato, una di quelle ventoline di computer. Adesso non so perché si è bloccata, forse come l'ho girata, ho interrotto il filo, qualcosa del genere. Perché l'ho attaccata sotto un piano, no? In modo che mandasse aria sull'apparecchio, così. E adesso si è bloccata. L'ho mosso, l'ho girato, perché l'avevo fatto orientabile, evidentemente ho interrotto il filo. Pazienza, se non abbiamo, se ne abbiamo da un'altra, me l'aveva regalata Luca del Monte, me l'aveva regalata quella. Vai, Marco. Già rientrato. Eia, vai pure. No, stavo ascoltando, ho passato un attimino il volume perché dovevo dare dei dati a un mio collega che servono per Roma. Cosa sta dicendo Marco? L'ultima cosa che hai detto non ho capito. Non me lo ricordo, insomma cosa ho detto. Cosa stavamo parlando di apparati? No, dico che la gente, no, è fissata di pigliare apparecchi amatoriali anche non avendo, no, se lo usano il PMR, ma in realtà non c'è bisogno di avere apparecchi amatoriali. Ho fatto l'ipotesi a Giulio, no? Se io volessi andare in PMR con potenze elevate, non c'è neanche bisogno di apparecchi amatoriali, perché ti prendi un Alan G9, un Intec MT5050, no, i venditori ormai te li vendono già con 4 watt e come vedi bastano gli apparecchi PMR con potenza alzata, non c'è bisogno di apparecchi amatoriali, se uno volesse, è sempre un'ipotesi. Sì, ma io non so, ragiono diversamente, capito? Ragiono diversamente. Tu immaginate che io li sento tutti quelli che parlano, che poi sono uno attaccato all'altro, non dico, insomma, si sentono tutti perché io li seguo. Io li ascolto senza neanche accendere le mie apparecchiature amatoriali con antenne esterne, capito? Cioè non posso accendere il 475H della Icon, cioè per ascoltare a loro. E c'è un portatilino, il Voxion amatoriale naturalmente, con l'antenna interna. 10, non ho buon territorio, poche parole. Ma la cosa grave è che è il movimento, perché so che il movimento è che hanno registrato uno dicendo sto usando questo, sto usando quello, direttiva, qui, là, cioè sono cose che non vanno bene, capito? Perché se ci hanno dato la concessione per usare anche il PMR, ci hanno dato per usarla con portatili omologati, non apparecchiature amatoriali, capito? Se lo fai almeno fatti furbo, invece non ti fai manco furbo, quindi è chiaro che ognuno si prende le cose che si prende, cosa me ne affitto a me. E io non devo dare nulla, nulla a nessuno, né conti né baroni, capito? Non frega niente. Per la motorizzazione civile, quando tu compri una 500, la trucchi, se ti trova la polizia stradale te la sequestra perché è truccata, non capito? Perché quella è una truffa allo Stato. Perché tu paghi il bollo per 500, 495, invece stai usando una 500 truccata a 750 abat, capito? Quindi è una truffa per la motorizzazione civile. La polizia stradale te la sequestra perché non è omologata per questa cosa per le radio. Vabbè, sono discorsi lunghi che non fatto più, che mi sono stufato di fare, non me ne ha fatti nulla, quindi non è stato tranquillo e sereno, no, io sono sempre in ascolto, sono sempre su questo periodo un po' assente, ma comunque così, vabbè. Ok, c'è un bel fresco stasera e forse ho azzeccato la serata bella per rientrarmene a casa, provarsi che riesca a dormire, un caldo Giulio, in chi si aggaggia e trainerato all'Isola Rossa, all'Isola Rossa Porto tra l'altro, eravamo in tre, una bella casa, ma che c'è, sono tutte villette lì al mare, ma senza aria condizionata, senza nulla, vera, come ti diceva l'amico mio, vedete, ogni notte se ne alzava, si sedeva fuori con la sedia, a voce alla scogliera, e chi, che dire, adattava a me, cucato i rimarraggi, so che sciupendi, diceva. Tornando al discorso PMR, io guardate, 3 giorni fa, 4 giorni fa, mi sembra, forse lunedì, se non ricordo bene, stavo parlando con Battisio e con Gio Maria, e la prova c'era data Battisio che stava usando il suo antennino, il gommino, e arrivava più forte all'antenna che gli avevano costruita, che gli avevano costruito. Per cui sia io che Gio Maria gli abbiamo detto no, si sento meglio col gommino che con l'antenna, siccome ha voluto fare quelle prove. Se che vede bene a un certo momento il gommino è efficiente. Si tratta solamente di avere la fortuna di trovarsi in una buona posizione dove c'è campo libero, come posso essere io ad esempio qua. Sono fuori, non ci sono grandi palazzi, altissimi palazzi che impediscono di passare l'RF. È così, oh Marco, capito? Per cui è solo una questione di posizione, soprattutto quando si utilizzano quelle radioline lì. Avanti, Rotari. In effetti, io non so più nulla qua perché temevo che qualcuno veniva a controllare e ne ha tolto tutto, non so più nulla qua. Cadavi di metallo in legno, mezzi affondati. Vabbè, quello sì, ma io l'avevo ricomprato perché costava la metà di quanto costava il primo che avevo. Poi il primo l'avevo volato, l'avevo, sono stato un paio di mesi senza. E poi guardando il computer ho visto che quello stesso che avevo prima costava esattamente la metà di quanto l'avevo pagato precedentemente. E allora l'ho comprato per quello. Lo uso così sporadicamente, qualche volta, proprio per salutare a Battisio, salutare a Gio Maria, così e basta, niente di particolare. Vabbè, avanti, qua. E così, vabbè, comunque, perfettamente tutti, li sento tutti, e forse la mia posizione, loro giù sono tutti attaccati, quindi non hanno nessun problema di sentirsi, capito? Farsi due chiacchiere, perché li sento, chiacchierano, scherzano, ne fanno giustamente, ma sono tutti vicino, quindi è chiaro, perché per uno lontano dice ma io non lo sento, non ti sento, non mi sentono, allora provi a fare qualcosa, mettere qualche antennina e riesci a farti sentire, ma lì sei già un po' a norma, insomma, ma insomma, si senta uno che sta usando 25 watt in PMR, una cosa un po' carico triste, vabbè. Ok, va bene, io farei tutta, non hai fatto poco, ne fai poco, per quello che hai sempre avuto belle cose, grandi cose, ma hai avuto sempre la testa a posto, le hai usate sempre al momento giusto e nelle cose giuste, non ho mai sentito parlare di te, di sbagli fatti in quel contesto, capito? No, le sto sentendo di tutti i colori, vabbè. Da una recimento alla su Messi, quindi non me la fottigo più nulla. Ripeto, ribadisco che ognuno fa quello che vuole a casa sua e poi raccoglierà i pezzi quando sentirà bussare la porta, vedo che ti richia. Stai mangiando, Marco? Hai già mangiato? Cosa ti sta succedendo? Non sentiamo masticare. È vero, sì. No, siccome ci siamo rovinati l'appetito, sia io che mamma, mangiando lei gelati o patatine prima di uscire, oggi mangiamo un po' più tardi. Vediamo che ore sono. Ah, c'ho la 7:26 e mangeremo alle 8, penso. Pranzo, cioè voi cenate, io pranzo. Andremo bene. E vabbè, ci siamo rovinati l'appetito, d'altronde la colpa è nostra. Vabbè, comunque per i tempi, ti ricordi, per finire sempre la volta della telefonata, quando scala da Porto Torres. Sì, vabbè, ma io guarda, mi vergogno, ho arrivato 20 anni di pirata prima, da quando ho iniziato al 93, che poi mi sono preso la tappetta, perciò però non ho mai avuto nessun problema con nessuno. Ci si divertiva e ci si cercava di stare con la testa a posto. Vicino a me pare sono diventati tutti con capo a fumo. No, vabbè. Ok, d'accordo. Stavo dicendo, Natali, ma è a pescare, andate, ci siete con Gianni? Una volta solo siamo andati, adesso sta tornando lavorando Gianni, ha finito le ferie, quindi non c'è stata occasione. Gappa, vediamo se è rientrato in macchina Gianni, dove mi pare andare a prendere a Marco. Gianni, ci sei? Ci sono sempre, ci sono. Vabbè, raccontaci, a Piccano dove sei andato? Sono andato quella volta con Natali della Piano di Alghe, perché sono stata una maneggiata. Si faceva la parrucca di alghe, cazzo, e non faceva, dai. Si ingrubilava tutto, ce ne siamo andati. Non era giornata, dai. C'era il mare calata, però purtroppo le alghe, cazzo, rompono le palle, non riesci a pescare con le alghe. Si va l'alga sopra l'esca, non la fa vedere i pesci, eccetera, non riesci a prendere nulla. Sì, già capita. Adesso me ne ho ritrovato un attare di posto, mi hanno detto vai sicuro, perché io ogni volta che vado tre le prendo di orate, un chilo e mezzo. Cappa, oggi c'era Angelo mica da qua, c'era, ma da devo salire a pigliare tutte cose, a chi era tu bari qualcuno allungato le mani, due abbassi di busto d'orra. Me lo immaginavo, lì la cosa si la vedi, lì si la pigliano, non è che rispetta la roba degli altri, e si la pizzicati, là. Non ha pizzicato nulla, si la diria suo sul casino, forse. Oggi mi è venuto Angelo qua, perché mi doveva portare cosa, e si è stato anche a pranzo, ma viene regalato due reti di coso, di giughizza, a giughizza, cazzo, più la base asciutta, insomma, siamo fatti a beffa oggi. Andavè, meglio stare in compagnia, andare d'accordo, andare a salire, andavè, che quando è così va bene, dai. se vuoi vengo a fare l'esca la prossima volta. A te l'immagine questo Marco, eh? E io l'ho invitato, però non ci viene, maledetto. Ma già, non so che zona ti abbiamo letto, ma un mio collega lì della zona di Castelsardo sta andando in quella piana di Marrizza, proprio faceva lo scorrimento veloce Marrizza lì verso la Tornara, no? Tornara in Marrizza, e dice che si pesca molto bene lì, soprattutto orate, ma ci sono anche saraghi giganti. Ma quella zona è pescosa, tutta quella zona lì, dai pettini fino alla Marina di Sorso, tutta quella zona lì, perché c'è un canale lì, lo chiamano autostrada, dove avere un lancio di 150 metri però. Se tu arrivi in quel canale c'è il passaggio del pesce. Ma ecco perché lui fanno un sistema praticamente, capito? Portano le lenze fuori col gommoncino, c'hanno un gommoncino con motore piccolino, portano la lenza fuori e poi ce ne rientrano. Lo so, ma non è sportiva come pesca quella, così è, vabbè, è troppo facile. Io invece lo sai cosa facevo? Invece che il gommoncino usavo legame, ma io non mi fido più perché mi vengono i crampi, ma andavo, le portavo a largo le lenze con le pinne, e il signore una volta che ho preso la lata grossa mi ha detto, te la sei meritata, te ne ho contate, fatto 6 volte, sei andato a portarla a largo la lenza, te la sei meritata quell'orata, maestro. Beh, normale, è franco, veramente è franco. Ma Franco Galiffo, io quanto lanciavo la panchina, mamma mia, da paura, Franco c'ha un lancio micidiale, però dalla spiaggia non lo so, la panchina è, è allucinante, e vabbè, comunque andate a pescare che già c'è il pesce adesso, che ti maleggiati, che tu venti, ti soffrendi, che ti venti strani, già si può andare a pescare. Va bene, no, noi ci abbiamo comprato il pesce in alta volta, ci abbiamo mangiato via di Soros, tra un altro sud e l'altro, ma su giù, abbiamo fatto una rotita del pesce, ma... Pesce buono, a me mi piace moltissimo il pesce, ho mangiato anche oggi, una bella spaghettata, e nel russo poi, così tanto quando sono bene, nel rigine scrivito, un po' di frutta, un pochino di salata e tira a campà. Adesso stavolta vedremo che cosa fa mia moglie, non lo so. Comunque suppongo che anche stavolta ci sarà del pesce, saremo a vedere. Però a me il pesce piace molto, e poi fa bene, il pesce fa bene. Però la carne, sinceramente, parlando, non la sto stufando, stufata, non sento più quel sapore di una volta. Pari su, non pari un niente, per carità, non va bene, assolutamente. Non mi piace più. Ciao Marco. E poi fa più bene al cuore il pesce. Come l'esquimesi dice che loro quasi non conoscono l'infarto, perché mangiano sempre solo pesce, o comunque non so se riescono a trovare anche qualche forma di verdura. È la carne che ha quel colesterolo cattivo, soprattutto le carni grasse, che ostruiscono le arterie e fanno venire gli infarti. Bene. Io qua sto aspettando la pappatoia, ma mi sa che me lo scaldo io, me lo mangio io adesso, invece di farmi servire. Era pur ora. No, io stanotte, perlomeno, il menù che ho fatto mia figlia, stanotte lo stesso, cioè, che faceva delle pennette con le sarde, con le sardine, capito? Buone. E poi non lo so, ma ieri ad esempio anche noi abbiamo mangiato merluzzo, ma lì all'Isola Rossa giù, noi pesce ce l'avano così, entrando le barche, sono le barche di micidiali che vanno sotto costa lì a pescare, ma addirittura stavano vendendo, quando mercoledì stavano vendendo le aragoste vive mi appena nella cesta, sono entrato a una barca, già con una cesta piena di aragoste, c'erano qua, si è sentita una cosa, io la conosco il pescatore, no? C'è anche la pescheria lì all'Isola Rossa, proprio di aragoste, i crostacei eccetera, c'è la ricerca, tutto, e io gli ho fatto un grido, io ho messo una capra cioè mi mano il guscio della capra marina, più grande del coperchio del 440, enorme, quanto era bella, era detto che so, mi sembra milanese o torinese, ha detto quanto costava viva così, no? Prima l'ha detto il compagno, mi pare, una cosa del genere. E l'ha giurito a Marlo, si chiama Marlo Angelo. È uscito anche in televisione da poco per la crisi che c'è stata appunto della di pesca lì all'Isola Rossa. Ha levato il citato di 150 euro. Oh, gli ha detto 150 euro questa deve appassionare. Va bene, me la dia. Allucinante, ha giurito. Si dice che 200 te la pagava 200. Purtroppo quando uno ha i soldi se ti sfizzi si abitudine, va bene, di arrivare, se no a cosa serve avere i soldi e non usarli, non serve più per niente. Ha fatto bene, ha fatto, grazie, si vive solo una volta intanto nella vita. No, io adesso domani mattina mi alzo presto, vado e compro delle trotte salmonate, oppure addirittura salmone se lo trovo, ma non è proprio mai qua, per trovare salmone devo salire al mercato. Però qua ci sono le trotte salmonate in questo supermercato qua vicino, che me le ha fatte già un paio di volte mia moglie con la gratinate, con le patate gratinate sopra, ma allora è un buono, fatte in teglia, ma è talmente buono, mi piace così tanto, ma è proprio veramente buono, buono, buono. Se trovo salmone, prendo salmone, non me la tenuta brusi contro me, però al limite ripiego sulle trotte salmonate almeno quelle. Avanti Marco. Volevo chiedere, qualcuno ha visto la pubblicità, prima non la conoscevo, di questo tonno Antonio Parodi, produce sia tonno in scatola, sia sardine, filetti, un po' di tutto. E se qualcuno l'ha assaggiato anche questo tonno Antonio Parodi, fanno pubblicità in televisione. Guarda, dovrebbe essere un'azienda genovese che importa da Spagna, Portogallo, Brasile e non so cos'altro. E poi credo che ne scatoli lì alla sede centrale di Genova. No, perché sentendo questo cognome Parodi, ho detto, ma sei sarda? Invece non è sarda, almeno non dovrebbe essere. Ma guarda che Andrea Parodi mica era sardo, è genovese, mira. È quello che ho sempre seguito io qua, però io sono più credi, e poi mi fanno arrabbiare quando mi dicono che non è vero, no, dice, non è vero. Quando Andrea Parodi veniva da me tantissimi anni fa, più di 15 anni fa, veniva a casa, veniva, perché c'era mio cognato che perché era bassista del stesso complesso dei Casenda, no? E dunque venivano tutti qui da casa, lo so benissimo che era a genovese, però dicono che è nato a Porto Torres, non è vero, è nato a Genova, è vissuto a Porto Torres, però è nato a Genova, qua. Se mettevamo vicino, mia madre con la madre di Andrea o come sorelle, capito? Assolutamente, abitava vicino a casa di mamma, lì in via Petronia, Andrea. Quando sono arrivato a Protose, Andrea è arrivato piccolo a Protose, però forse, non so, non si aveva 16, 17 anni, 15 anni, una cosa del genere, no? Era attaccata a Cerro al muro confinante con mamma, quindi è di Genova, Andrea è nato a Genova, è vissuto a Protose da piccolo, a Protose è molto, però è genovese, i genitori sono genovesi. Vi saluto, che sono arrivato, buona serata a tutti e buon continuo queste ore. Ciao a tutti. Ciao Gianni Doppio, a presto. Ciao Gianni, a presto. Sì, qua, è così. Ciao Gian. Marco, saluta Gianni, poi non Martino anche, vai, così poi continuiamo a parlare. Ciao Gianni, dai, buona serata. E quindi, ma il cognome Parodi è tipicamente genovese o sardo, o anche sardo? Genovese. Il padre di Andrea era genovese. E io, a parte il fatto che poi era molto amico della sorella di mamma che abita a Genova, è protorese, ma lei da ragazza è andata a abitare a Genova, quindi veniva tutta l'estate e stagione, sempre tutti in pari, capito? E io tendivo sempre il Belin, Belin, parlando il padre, parlavano così, un Belin, Belin, e alla fine mamma e io in tangenda non li ho mai seguiti, no, io da Rocchettaro quella roba non mi interessava. Anch'io credevo fosse sardo lui, sardo proprio, sardo. Infatti se tu apri il computer e leggi che lui è nato a Pozzatorre, ma non è vero, è un errore Marco, te lo posso assicurare. Andata lui, è nato a Genova, è genovese, perché faceva parte di questa azienda dove ci suonava anche mio cognato, tra l'altro. E ripeto, a casa mia è venuto per anni, non solo lui, è andato Andrea Pudiche, tutti quanti, Antonio Pudiche, Marini, come si chiama, quello barbuto che c'era ancora nell'azienda, tutti venivano, tutti quei ragazzi venivano a casa, e dunque gli ho parlato centinaia di volte, ci ho parlato con lui, e lui era genovese, poi naturalmente la gente è convinta, dice, si è convinta che è nato a Pozzatorre, non è vero, è nato a Genova. Ma noi a Tonale c'era un bel gente di Genova, sono venuti un bel a Genova, c'era anche il coso Cammetta, non so se ti ricordi, che adesso è a Genova appunto con i rimorchiatori, il figlio, il padre mi sembra sia morto, ma il figlio che è comandante di uno dei rimorchiatori di a Genova, è venuto apposta a Genova per il funerale di Andrea, poi siamo trovati a Polotorese, così involontariamente, ho detto così la nostalgia, lo conosco da ragazzino, ma quando il padre era comandante dei rimorchiatori, quindi comandante di Vincente, dove ci lavorava Domenico Papa Whisky, Gianni Giaossa, quindi immagino già di tu Marco, e poi è stato il professore di mio fratello nautico Andrea, quindi lo so molto molto bene, lo conoscevo molto bene, amico di mamma, perché mamma era bidella a nautico, quindi Andrea a volte ha pranzato anche a casa di mamma, perciò te lo dico con molta, è così come sta dicendo Giulio, è nato a Genova, è venuto da ragazzino con i genitori, perché il padre di Andrea lavorava a Lansaldo di Genova. Quando Lansaldo di Genova ha preso lavori, i primi lavori a Lenica a Porto Torres, ok, il padre di Andrea era responsabile del pontile di Lenica addirittura. Quando sono finiti i lavori non se ne è voluto andare più, ed è rimasto in Oghi. Eia, comunque sì, è vero, su Wikipedia, che è l'enciclopedia online di internet, che è fatta da utenti, ricordiamo, e quindi ci sono, possono esserci sbagli, dice Andrea Parodi, Porto Torres, 18 luglio 1955, vedi? Allora è inesatto, andrebbe corretta questa voce, ma è buono, adesso so una cosa in più, dai. Che lui fosse Andrea è stato sempre un mito per Porto Torres, e quindi sai benissimo, gli hanno dedicato anche una via, gli hanno dedicato l'ex cinema Teatro Olimpia, adesso è Teatro Andrea Parodi, c'è la biblioteca di Porto Torres col suo nome, Andrea Parodi, è un mito per Porto Torres Andrea. Andrea diceva sempre che lui era portotorrese, e quindi forse nel parlare, nel sentirlo in continuazione dire che lui era portotorrese perché era talmente attaccato a Porto Torres, non ha mai detto che era nato a Genova, e quindi hanno scritto così, Marco, capito? Poi c'è successo una cosa del genere, ma ti posso assicurare che Andrea è nato a Genova, è venuto da ragazzino a Porto Torres perché il padre era capocantiere dell'Ansaldo, dove lavorava anche mio cognato, quello che abita ad Alghero. E quindi quando hanno iniziato i lavori a Porto Torres, lui era sempre a Porto Torres, abitava in via Petronia, e poi non se ne è voluto più andare, è rimasto a Porto Torres, quindi Andrea è stato cresciuto a Porto Torres, e lui diceva sempre che era Porto Torres, e parlava anche bene il Porto Torres, non solo il sardo, perché il sardo Andrea lo masticava veramente molto bene, come noi mangiamo, era un mito, non ce n'era per nessuno, perciò te lo dico con molta tranquillità. Ragione Giulio, Andrea è nato a Genova, ma ha vissuto da piccolino a Porto Torres con la sua l'attaccamento aveva a Porto Torres, è chiaro che lui diceva io sono di Porto Torres, capito? E magari lì è successo il patatrac, vai giù. Ok, sì, ma io lo so con la massima certezza qua, perché io ricordo di più, quando loro erano il sole nero, proprio all'inizio, che avevano vinto poi quel concorso e poi sono partiti fuori, hanno fatto la tournée con Gianni Morandi, e Gianni Morandi veniva anche lui qui da me a casa, dove sono io, non potevo avermi tu a fianco, ci abitava mia cognata nella stessa costruzione, e dunque mio cognato, e io ho parlato tantissime volte con tutti questi personaggi qua, e lo so con la massima certezza che lui era genovese. Anche perché mio cognato me l'ha sempre detto, no, è nato a Genova, è vissuto a Porto Torre, ma è nato a Genova, tranquillo, no, non ci sono dubbi. E ci stavo dicendo, avevano comprato la strumentazione, avevano comprato per questo gruppo emergente, il Sole Nero, che poi è diventato Colore degli Angeli, che l'ha fatto diventare il Mogol, gli ha cambiato il nome, perché avevano fatto una tournée insieme a Gianni Morandi. E dormivano addirittura con sacco a pelo, loro non prendevano pochi soldi, prendevano gli Gianni Morandi, si pigliavano tutta la terra di là, perché era Gianni Morandi. Infatti il rilancio di Gianni Morandi è stato proprio attraverso il Sole Nero, che poi cambiando il nome si chiamava ancora degli Angeli, e poi successivamente è diventato Italvenda. E su tutta la storia io non si può dire di no. Vai Marco. Comunque altri siti anche sbagliano, quindi andrebbe corretta quella cosa, ma non sarebbe anche dalla faccia, l'avevo dato per sardo, boh. Vabbè, dai, c'è una cosa in più adesso. Chi c'è rimasto? Natalino? Lui se ne va per sardo, lui voleva quello, non c'è niente da fare, io conosco anche molto bene la moglie, quindi... soprattutto dice sempre che Andrea, il cuore di Andrea è nato in Sardegna e è morto in Sardegna, capito? Quindi non, Genova per lui non esisteva, anche perché ti ripeto, è venuto, era arrivato a Porto Torres che era piccolo, era ragazzino, e c'ha 2 anni in più di me, quindi non è che 3 anni in più di me, scusa, quindi perciò non è che era, non avevamo questa grande cosa, ci vedevamo tutti i santi giorni, e poi insegnava a nautico, quindi con mamma avevamo un rapporto omicidiale, vabbè poverino, è andata così, ma se tu vai a Protose c'è la via, appunto col suo nome, c'è il teatro, c'è la biblioteca che hanno inaugurato tra l'altro da poco, ci sono tante cose di Andrea, capito? Addirittura in Piazza Garibaldi volevano, dove lui faceva spesso serate con l'Italvenda, le feste principali si facevano lì, o in Piazza del Comune, capito? Di fronte alla Piazza del Consolata, volevano fare addirittura un monumento, invece la moglie non ha voluto, non è il caso. E allora hanno intitolato una via, che è via Andrea Paruti, la zona nuova di Porto Torres. Va bene raga, dai, io vado a portare il camione, dai, che sono le 8:10. Per il momento vi lascio, grazie alle 2 chiacchiere, comunque sappiate che io da oggi penso di, insomma, la sera di farmi sentire più spesso, perché sono a casa anche domani, da lunedì dovrei riposare per un po' di giorni, un paio di giorni, 3-4 giorni, quindi mi faccio sentire. Fatemi sentire e così ci aggiorniamo le nostre cose, i nostri ciaramenti. Ciao Marco, ciao Giulio, ciao Natalino, Gianni se sei ancora in ascolto, chiunque fosse in ascolto qua su Canale 10. Per il momento mi allontano, vado a portare il cane, se nel caso ci siete dopo ci sentiamo dopo, altrimenti buona cena a tutti, vai giù. Ok, qua, ciao. Sì, che facciamo, se mi faccio sentire senz'altro, ti ringrazio per la chiacchieratina e così facciamo anche una mezz'oretta la sera tranquilli e pacifici così alla radio e non perdiamo mai il vizio per questa passione che ci aveva condizionato in un certo senso. Bravo. Ciao ciao, alle prossime. Vai Marco a salutare a Claudio. Ehi, ciao Claudio, dai, buona serata, buona passeggiata. E io dove sono nato? Tu sei nato, me l'hanno detto, anche tu sei nato a Genova, se ricordo bene. Sì, sì, anche tu sei nato a Genova, è vero. Visto? Giulio ha una memoria di ferro. Io sono solo nato a Genova, ma poi subito dopo ritornati a Sassari. Quindi solo di nascita a Genova. Padre sardo, che è detto tra noi, poi è scappato. Quindi io ho il cognome di mamma, che è nobile, ma capito? Purtroppo gli uomini sono meschini alle volte. Però nascita a Genova, madre era pugliese, però sardigiata, diciamo, padre sardo, solo nata lì, capito? Ok, ma così è ben certo, quelli sono i vigliacchi che nella vita si incontrano, certe persone che poi si allontanano dopo che hanno realizzato qualcosa di importante. Purtroppo così, se no puoi pensare, figurati. Forse è stato anche meglio, perché se uno ha una testa del genere è meglio non condividere la vita. Sì, Marco, ma non è così, guarda, io ripeto ancora una volta, mio cognato me l'ha sempre detto, tu non immagini nemmeno quante volte io ho avuto delle discussioni con delle persone, ma sai perché? Perché si insistono anche con più persone, lì. Insistono, perché? Perché vengono sul giornale, magari nato a Porto Torre, oppure sul computer nato a Porto Torre, si smetto più di un giornale, ne sai, com'è l'ignoranza della volte del sassarese, della persona sassarese. Ma questo non significa niente il fatto che abbiano scritto che è nato a Porto Torre. Se io ti dico che è nato a Genova perché so che certo che è nato a Genova, capito? Purtroppo è così, io, ma comunque è andata. Sembra un po' più anch'io, dai, sono quasi le 8, dunque è questione di. Questo non c'è, ci sta condizionando anche quello, l'orario per la cena. Avanti, Marco. Sì, sì, adesso ti lascio andare. Io sto aspettando che qua si mangi pollo con le olive, buono, buono, però non c'erano olive verdi, abbiamo usato quelle nere, è pregiunta col nocciolo, vabbè, perché le verdi sono più salatine, sono più buone, c'è poco da fare, però no, al momento non le avevamo. Sì, solo di nascita a Genova, non so se te l'avevo detto, ufficialmente viaggio di piacere, ma c'è un altro motivo, non so se te l'avevo detto, vabbè, casomai te lo spiegherò per altre vie. E tutto lì, ma questo individuo abita anche nella via nostra, mi so che noi siamo in via Nizza a destra, cioè salendo in via Trento, via Nizza a destra, lui in via Nizza a sinistra, all'angolo, ma sempre stato uno che si credeva bello, che faceva il farfallone, adesso è solo come un cane, capito? Chi semina raccoglie. Sì, sì, sì, ma in effetti è così. La vita repara sempre certe persone, guarda. Il destino lo ripara sempre a certe persone, no, non ci sono dubbi. Comunque, non hai perso niente, Marco. Hai fatto la tua vita ugualmente, tua madre sta cresciuta e sei tranquillo ugualmente, che te ne frega. Ripeto, convivere con una persona che non merita non ha nessun senso. E lo stesso discorso vale magari quando due persone si separano. A un certo momento, se per vivere sempre con una certa bufera in casa, tanto vale che due si separino, così almeno la famiglia vive tranquillo, sia i figli, la moglie e anche lui in un certo senso, perché vuol dire che non sono adatti l'uno per l'altro e allora non c'è da meravigliarsi, la vita è anche quello. Va sempre avanti, Marco, non ci sono problemi. Comunque arrivato a questo punto io ti saluto, Marco, sono le 8:05, è ora di cena, per cui devo scendere. Ciao, ci sentiamo, grazie per la chiacchierata. A domani se coincide, se è stato coinciderà, se ti fai sentire, io accendo, comunque. Ci sentiremo allora, in questo caso qua. Ciao Natalino, se sei all'ascolto, non lo so. Ti prendi tu, Marco, dai, aspetto il finalino, saluti e poi chiudo. Ok, ciao. Sì, via, ciao Giulio, dai, buona cena. Se sono a casa domani entro, oggi non sono andato al mare perché c'era vento. Domani vedremo come sarà la giornata, ok? Alla prossima, dai, ciao, buona serata. Ciao Giulio, già l'ascolto, ho anche risposto quando mi avete chiamato, solo che Claudio mi ha parlato sopra e forse non mi avete sentito. Ok, ciao Natalia, alle prossime, ci sentiamo domani. Ciao. Sì, Natalia, avete ripreso assieme con Claudio e passava lui, di poco ma passava lui, almeno qua. Infatti io lo già avevo ripreso, ma adesso così. Adesso me ne vado a cena e così vediamo un po' di guardarci un po' di televisione dopo. Quanto bravo, no? No, non c'è quanto bravo. Che istruttivo. Cosa guardate di solito in televisione di sera? Quei programmi là, preferite film o programmi tipo Quarto Grado, come avete detto voi, o quelli tipo che parlano di cronaca? Io preferisco i film, però molte volte mi fa guardare questi giaranetti, mia moglie, che gli piacciono quelli. Purtroppo ci sono programmi di giornalisti che parlano sempre delle disgrazie degli altri, che vivono anche di questi fatti qua. Ma ogni giorno ce n'è minata lì, ogni giorno c'è quello di colore che ha ammazzato madre e sorella, quell'altro che soffoca la moglie col sacchetto di plastica e si butta al guido piano. Ogni giorno c'è gente che diventa matta. Ma il bello è che se uno quando è depresso non è che si spara solo, prima ammazza tutta la famiglia, come se si volesse portare con sé, e poi si spara lui. La gente sta diventando matta e non è il caldo, no. Non lo so che cosa sia. Chi gira le di gambo, su quel caldo, girano di testa, la gente così gira di testa. E allora succedono questi incidenti qua. Sì, sì, sì, come questo nero. Ma se era depresso, dico. O si fa curare, oppure dico ammazzati da solo, se proprio, anche se è una brutta parola dirlo. Invece no, si coinvolgono i familiari. E poi ho notato una cosa, che molte persone che ammazzano famiglia poi si uccidono, sono armati. Tu non uscire di testa, Natali, tu sei depresso, pigliati antidepressivi, vai dal coso, ma non lo fare mai. Ho notato, tipo ex carabinieri, ex poliziotti, tutta gente armata che spara in testa la moglie e i figli. Ma è strano, perché è strano il fenomeno, Natali, perché chi tiene armi non può essere depresso. Cioè bisogna presentare certificati medici o li hanno falsificati, capito, col medico compiacente. No, già lo sai com'è la storia. Ma non puoi falsificarli perché ci vuole il medico compiacente, è il tuo medico di famiglia che deve rilasciare un certificato anamnesico. Poi con quello devi andare all'altra a farti fare il foglio, a dire se sei drogato, se sei ghiccio, se sei ghito. Se tu hai una piccola cosa, basta una minima cosa e non te ne danno. Come mai allora molta gente continuava a tenere a? Perché sai, quando c'è il primo segno di un malessere sociale, di una depressione grave, naturalmente, perché ti dirò, anch'io sono depresso, perché sai, il lavoro non ce n'è, fisicamente non è che sia bene, ma non sto pensando a quello io. Invece c'è gente che proprio è all'ultimo stadio della depressione e si deve portare i familiari con sé. Quindi sai come fai, no? Tu al medico magari dici no, a un umano, gli dai 100 euro e lui ti scrive che sei perfettamente sano fisicamente e mentalmente, capito? E invece magari non è così. Ma chi è che se la prende la responsabilità? Se poi tu ammazzi qualcuno, arrestano anche il medico che ti ha rilasciato il certificato, perché se risulta che tu non eri in regola è un casotto, non è usino. Ma guarda che basta una denuncia per rissa, oppure tu hai parole con qualche vicino, ecco, subito ti prendono il porto d'armi e le armi ti sequestrano pure. È successo al direttore di tiro che avevamo un giù alla Crucca, questo di Alghero. Beh, ha avuto parole del cognato ad essere di una denuncia delle anemia del Busulaima e tutte le anne, subito. Ok, Antalì, però ci sono anche delle persone che pur essendo mentalmente sconvolti, no? Che hanno pensieri brutti, riescono a celare, riescono freddamente a nascondere il loro stato al medico di famiglia, capito? E poi però quando arrivano alla fine sterminano la famiglia, capito? Però riescono a nascondere il loro stato, capito? Quelli sono i più pericolosi. Invece certi dimostrano proprio il loro stato, capito? Allora possono riuscire a intervenire in tempo, sequestrando le armi e tutto, no? Lo so, però quelli che compiono quegli atti così sono fuori di testa perché disperati, capito? Non è che sono solo depressi, sono disperati. Molte volte la gente si ammazza perché è disperata con tutto quello che sta succedendo. Lo so Natalì, però certe persone disperate, tipo gente che la cui azienda è andata in rovina, no? Dico, se ti vuoi ammazzare, ammazzati alla giura, invece no, spara moglie e figli. Però questi qua non contano che potrebbero ingoiare l'orgoglio e andare alla Caritas, farsi aiutare dai servizi sociali, farsi aiutare dalla Caritas. Invece certi, una volta che diventano poveri, che hanno problemi di soldi, problemi finanziari, piuttosto di andare alla Caritas, sterminano la famiglia, capito anche? C'è quella cosa lì. Cioè se io finisci male, io non ho problemi ad andare alla Caritas a mangiare, a trovare un posto di dormire per male altro. Però certi non lo fanno, capito? Se finiscono male finanziariamente, seminano la famiglia, è un meccanismo perverso, non so come definire perché non sono uno psicologo, uno psichiatra, ma è così. No, sono delle mine vaganti qui, quelli sono disperati oltre che depressi e fanno cose che non avrebbero mai fatto da sani. Poi uno che c'ha il portafoglio ma deve essere perfettamente sano, perché se ce l'hai la usi, c'è poco da fare, quindi cazzo se tu non sei equilibrato fai danno. Eia. Invece da poco, ne hanno parlato la Nuova Sardegna oggi, uno a Valledoria, mi pare che fosse a Valledoria, che aveva tentato di sparare alla moglie, però per motivi di separazione credo, non per depressione, aveva sparato alla moglie e però non l'ha uccisa, l'aveva beccata mi pare alla gamba, al gomito, alla spalla, no? Quindi ha tentato di ammazzarla, quindi già gli dovevano dare roba di 15 anni per tentato omicidio. Beh, questo era i domiciliari, è uscito dai domiciliari, è andato nella casa di proprietà, mi pare, sua e della moglie, o giù di lì, ha messo fuoco alla casa e oltre che ha distrutto la casa della moglie o quella che era la sua ex casa, stava morendo soffocato e bruciato lui stesso, guarda che idiota. Non figurati, hai lavorato il capo, ora se mi fai vedere di questa separazione, viene più separati che coniugati di salienti, no? È una cosa a cazzo che non si crede. Ah, poi Natalì, hai visto quante donne vengono ammazzate, anche giovani? Perché i ragazzi o gli ex mariti non accettano la separazione o non accettano di essere lasciati. Dice che l'ultimo, l'hanno detto anche in televisione, l'ultimo appuntamento con questi uomini è il più pericoloso, perché vengono armati o strozzano le ragazze o le ammazzano a martellate o pugnalate, capito? Hanno detto l'ultimo appuntamento è il più pericoloso, quindi se quello ti chiede un appuntamento per chiarire, è sempre da evitare l'ultimo, perché l'ultimo appuntamento è sempre più fatale. Io ne ho un'esperienza di questa ragazza che c'era di fronte tanti anni fa, che ha mollato il ragazzo, questo l'ha dato l'ultimo appuntamento per chiarire e le ha sparato in testa, poi hanno cambiato casa queste ragazze. E ce n'è un bene di gente ammazzata la ragazza. Non temono nulla perché la pena di morte in Italia non c'è nemmeno. ma è vero che in America lo fanno lo stesso, cioè non temono questi soggetti, non temono neanche la pena di morte, lo fanno e basta, poi dice vada come vada, la gente è matta, natalizia, lo dico, continuo a dirlo, la gente è matta. Infatti diventa la scimmia questa gente lì, perché sono non ragionano, quando fanno quelle cose lì non stanno ragionando. Sì, sì, guarda, il termine giusto è quello che hai detto tu, sono mine vaganti, non capiscono le conseguenze anche proprie, perché certi poi si ammazzano a loro volta, no? gente macca, a me quando mi ha lasciato la mia ragazza, vabbè, ho detto buon viaggio, capito? A parte che ne avevo già le scatole piene io anche di lei, quindi diciamo che ci abbiamo... è stato vantaggioso per tutte e due, invece certi sono matti. E vabbè, bisogna di voce. Vabbè Natali, dai, se devi andare, buona cena. Ci sentiamo appena possibile, dai, anche domani se non vado al mare. Fatti sentire che io ci sono questa settimana. Ciao a tutti, vado a cenare. E anch'io ero in cucina che stavo prendendo cosa e non potevo risponderlo a Marco. Vabbè, comunque io sono entrato, perciò adesso a giorni alterni, ma questa settimana dovrei essere a Sassari, quindi due chiacchiere ce li facciamo, dai, sono entrato adesso. Ma mi rinfresco un attimino e poi vado a cenare. Buona cena a tutti, ciao! Ciao Claudio, buona cena, dai. Ci sentiamo appena possibile, se no, quando non vado al mare io ho la radio accesa, poi che entri qualcuno è un altro discorso quello, dai. No, io se no vado la mattina al mare, giusto così per accontentare mia moglie, però alle 5 io sono a casa, non ci sto sino a tardi al mare, capito? Vado verso le 9:30, alle 10 la mattina, andiamo fuori e poi ce ne rientriamo, capito? Quindi la sera già sono a casa, dai. Va bene, ciao di nuovo a tutti, grazie delle due chiacchiere, bye. Sempre saline? Sì, saline, perché c'è un ombrellone lì, capito? C'è un ombrellone, draia, qui non porta niente. Sto comodo, passo una mezza giornata, diciamo, dai, tra la mezza mattina e il mezzo pomeriggio, tranquillo e rilassato. Sono che sento un lavoro, Marco, capito? Eh beh, giusto, ogni tanto bisogna staccare. Ok, ciao, buona cena a tutte e due, anche a Natalino, ciao. Ciao Marco, a domani. Ciao Natale, a domani, saluta mia Concetta, ciao Marco. Saluti anche da lì, ciao Cla, buona cena, buon tutto. Grazie.